tus ojos negros, a tu boca negra deliciosa. Le estoy cantando porque así me alegro, muchachita re bonita y salerosa. Cha, cha, cha. Conformo con cantante. Cha, cha, cha. Barba lunga, petto nudo, nastrassa intorno alla vita, i so addominali de ferro, l'aureola e il sorriso da ebete, l'era lu, l'era torna sulla terra, proprio lu, Jesus, Gesù, Jesus, non la mia sonà il campanel, non la mia bussà la porta, l'è passata al muro, non volea crederghe. Pensavo il fusse un pazzo furioso, la schioccai diei e dal cielo è cascato un rane. Le rane gli ha cominciato a parlarne. Gesù è il sa che te vuol fare uno spettacolo su de lui. L'è felice, Gesù l'è sempre felice quando qualcuno il parla de lui. Se te parli de lui, te parli con lui. Par questo lui, ora l'è qua, par parlar con ti. La schioccai die un'altra volta e le rane, come gli era rivè, gli ende via. Non mi interessa se non te si mia battezzà, se non te mi ha fatto la comunione e la cresima, se non te si mia sposà. Non mi interessa se non te battezzai to fiori, se non te venni a messa, se non te mai letto nella Bibbia, nei Vangeli, se non te si mia bonte parte il segno della croce, se non te te confessi, se te te masturbi, se te sia anticlericale, non mi interessa. Non te vorrei mia far uno spettacolo su questo. Mino son mia la mia chiesa, son nomo, dime, sa te vol saper. Ero via de testa, gavea de novo paura dei lupi, tremavo, me son buta in senocio, ho comincia a pianzare, a urlare, a domandar perdono e pietà a lui, e il mal sa far. Dopo il m'ha dito che l'era venuo solo per laurar con me, par scriver lo spettacolo insieme, a quattro mani, e il m'ha fatto giurar che l'era un segreto tra noi altri due, e il m'ha dito che sarei a piasuo essere in locandina, però con un nome finto. Mi, no che lo mia fata tenere il segreto, alla fine ho deciso di dirvelo, par due motivi. Uno, par non essere accusata de blasfemia o de eresia, quel che dirò l'avemo deciso insieme, l'è farina del nostro sacco, mio e di Gesù. Due, perché ve rendi conto che mi son qua a parlarve, ma in verità non parlo mia solo a nome mio. Quindi, stasi attenti ai vostri pensieri e ai vostri giudizi. Gesù el ve vede, Gesù el ve guarda, Gesù el ve ascolta. Cha, cha, cha. Muchachita re bonita y salerosa.

was the time you let me know what's real and going on below. But now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, La compagnia Babilonia Teatri con lo spettacolo Jesus di Valeria Raimondi, Enrico Castellani e Vincenzo Todesco. Parole di Enrico Castellani con Valeria Raimondi e con Enrico Castellani. Audio Babilonia Teatri, Luca Scotton. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con l'attrice Elena Baroglio per presentare lo spettacolo La conferenza degli uccelli a Roma, Teatro dei Contrari, sabato 15 ottobre 2022. Ben trovata. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Come lo presenteresti? Io direi che questo spettacolo è un viaggio. Questa è la cosa che più mi adatta a descriverlo. È un viaggio perché parla di un gruppo di uccelli guidati dall'UPA che partono alla ricerca del loro re, il Simorg, che attraversano peripezie di tutti i tipi. Ogni uccello avrà le sue resistenze, le sue motivazioni per non partire, quindi ogni uccello sarà un po' rappresentativo di un carattere umano con le sue resistenze e con i suoi dubbi. E poi durante il viaggio attraverseranno varie peripezie, varie fasi, e queste fasi sono anche delle tappe esistenziali in qualche modo, fino ad arrivare a incontrare il re, che poi si vedrà che è più un incontro con se stessi. Quindi questo è una sorta di metafora, un viaggio iniziatico, ed è un testo antico del 1200 di Poema Sufi, del poeta iraniano Attar, che poi è stato riadattato negli anni 60 da Peter Brook. Ed io sono andata in scena per la prima volta con questo spettacolo nel 2018 a Napoli Teatro Festival con un gruppo di 9 persone per la regia di Anna Redi, e successivamente con le varie vicissitudini di questi ultimi anni con la pandemia eccetera è diventato un po' impossibile portarlo in vita, e ho iniziato a farlo a casa da sola come monologo, interpretando tutti i personaggi e utilizzando il pianoforte come accompagnamento musicale e anche come creazione di uno spazio sonoro. Successivamente si è un po' modificato, si è ampliato con altri suoni, anche con la presenza di un musicista, quindi ci sarò io in scena con il pianoforte che farò delle melodie, e poi ci saranno dei suoni che creeranno lo spazio di Matteo Saule, e quindi insieme creeremo questo spazio del racconto in cui io mi muoverò talvolta suonando, cantando, talvolta muovendomi nello spazio, interpretando diversi personaggi, per portare tutti gli spettatori in viaggio alla ricerca del loro re. Perché io sono l'Ucupa e coinvolgo gli spettatori anche parlandogli direttamente, come se fossero partecipi del viaggio. Sarà anche un vestiario abbastanza particolare, colorato, che rievoca le varie personalità degli stelli. Quali sono, secondo te, i punti di forza del testo? È un testo estremamente enigmatico, estremamente potente proprio per la sua capacità di scardinare un po' il ragionamento lineare, un po' pensiero associativo, la logica razionale. Quindi in questo modo crea una sorta di interrogativi continui nello spettatore, ma anche in me che lo sto interpretando, che ti portano spontaneamente in un'altra zona proprio del cervello, che non ha tanto a che fare con i pensieri e la logica razionale, ma qualcosa di più intuitivo. Quindi io penso che la sua forza sia quella di portarti in uno spazio meditativo quasi, di intuizione, di visione, molto visionario. Inoltre ha perle di saggezza che io ritengo di una profondità e di una verità e di un'eternità, in qualche modo, anche se sono state scritte nel 1200, ancora oggi le sento attuali, che proprio ti portano a leggere la realtà in un modo diverso e proprio il percorso esistenziale di vita, di interpretarlo in modo diverso. È molto simbolico ed anche trovo interessantissima la caratterizzazione dei personaggi, che è estremamente attuale nel vedere come anche a tutti questi anni di differenza ancora le resistenze dell'uomo rispetto al cambiamento sono un po' sempre le stesse. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli? www.teatrodeicontrari.it. Ci sono le informazioni sullo spettacolo e anche su un workshop che organizzeremo il giorno seguente proprio sui caratteri. Si lavorerà tantissimo sull'improvvisazione e sui caratteri umani e su come gli opposti poi si possono trovare all'interno di ogni polarità. Potete trovare anche sulla pagina Facebook, la mia pagina è Elena Baroglio, anche c'è un evento del laboratorio Tu da che parte stai, quindi la conferenza di stelle Tu da che parte stai su Facebook, Elena Baroglio trovate me e il sito del Teatro dei Contrari. Lo spettacolo La conferenza degli uccelli a Roma, Teatro dei Contrari, sabato 15 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Elena Baroglio. A presto! Ciao a tutti, a presto, ciao, ciao, ciao! Con Fabio Matteo Maffei, attore dello spettacolo Eros, a Roma, al T-Teatro, da lunedì 10 ottobre 2022 per tutti i lunedì. Ben trovato. Grazie mille Federico, buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie che mi state ospitando, per questa possibilità che mi state dando per appunto pubblicizzare questo nuovo spettacolo, ecco, lo chiamerei un nuovo spettacolo. Come lo presenteresti? Io parlerei proprio molto brevemente di Eros Alesi, perché parla proprio di questo ragazzo, un giovanissimo poeta, che visse a Roma negli anni 70 e purtroppo si suicidò all'età di 20 anni, quindi giovanissimo, buttandosi dal muro torto. Mi presentò il testo Marco Maltauro, che è il regista dello spettacolo, mi fece leggere il testo di Eros Alesi, che si intitola Che Puff, e io me ne innamorai principalmente per due motivi. Il primo motivo, che è un piccolo poema, lui ha scritto questo piccolo poema in versi liberi, quindi prima di tutto l'importanza della poesia, la poesia che, insomma, Federico, permettimelo, ma soprattutto ultimamente è stata dimenticata, quindi la ripresa di un linguaggio alto. In secondo luogo parla di droghe. Le droghe negli anni 70 si identificavano principalmente con l'eroina, c'era la tragedia dell'eroina. Adesso non se ne parla più, non si parla più di eroina, ma proprio non si parla più di droghe. E in realtà ci sono nuovi tipi di droghe che stanno facendo dei danni assurdi. Giovani, e non solo giovani, che muoiono. Giovani ricoverati nei reparti di psichiatria e nessuno ne sta parlando. Quindi diciamo che questi sono i motivi che hanno portato me e Marco a portare in scena Eros. Del testo cosa ti aveva impressionato? Lui parla con delle figure di riferimento, Eros, io parlo di Eros proprio perché mi sono talmente tanto immedesimato in lui che è come se fosse parte di me. Lui parla con delle figure di riferimento, col padre, la madre, la morfina, la morte, Tafferano, che è stato un suo caro amico, e anche con la vita. Mi ha impressionato il modo in cui si riferisce a queste figure, perché Eros soffriva quello che soffriamo tutti. Cioè tutti gli esseri umani, tutti noi, chi ha soldi, chi non ha soldi, chi vive in un contesto sociale, chi vive in un altro, ma tutti quanti, chi più, chi meno, soffriamo dello stesso, io lo chiamo male di vivere, che poi può essere identificato in vari modi. Quindi mi ha impressionato il modo in cui lui affronta a testa alta e con un linguaggio poetico figure come il padre, la madre, che sono figure, io parlo di archetipi, proprio la madre intesa a livello generale, non sua madre, ma la madre, il padre, la droga, la vita, la morte. Questo mi ha molto impressionato. E come ne parla un ragazzo di 20 anni, non un uomo di 40, di 50, no, un ragazzo di 20 anni. Come avete pensato la messa in scena? Marco ha fatto la regia e la drammaturgia. Io rappresento Eros Aleri e lui, Marco, il regista Maltauro, ha inserito un personaggio che in realtà in Che Puff, cioè il testo di Eros, non era presente, ovvero la figura di un farmacista. Quindi c'è un secondo attore che si chiama Fabrizio Amicucci. Fabrizio interpreta un farmacista che crea una sorta di conflitto. Lui rappresenta la società borghese, io rappresento invece la società, quella degli ultimi, tra virgolette, perdonami il termine. Si crea quindi un conflitto, cioè le due realtà si intersecano, si accarezzano per un solo momento, ovviamente. Quindi la società borghese viene a contatto con una realtà a lei sconosciuta, una realtà a lei molto lontana, ma che invece, e io su questo insisto, la realtà degli ultimi è la realtà di tutti noi, è la realtà in cui tutti noi possiamo cadere, in cui tutti noi cadiamo tutti i giorni. Quindi insomma la messa in scena è il conflitto tra questi due personaggi che rappresentano due realtà e parlano in maniera diversa, perché io utilizzo il linguaggio di Eros, quindi la poesia. Fabrizio invece parla il romanesco, parla il linguaggio colloquiale, quello naturalistico. Lo spettacolo sarà tutti i lunedì. Com'è questa formula? Tutti i lunedì al TI, che è uno spazio che si trova a Ponte Testaccio, in via Giovanni da Castelbolognese 31. Tutti i lunedì perché vogliamo dare la possibilità anche a tutti gli addetti ai lavori, quindi attori, registi, scrittori, per toccare la poesia e toccare determinati temi che sono importanti in questo momento. È uno spettacolo forte, c'è musica dal vivo, abbiamo deciso anche un prezzo popolare, quindi chiunque può accedere al teatro. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli? Do un numero più che altro di telefono che bisogna chiamare o a cui mandare un messaggio WhatsApp per prenotare, che è di Marco Maltauro, 333-2539-255. Esiste anche una pagina Instagram, una pagina Facebook di T-Acting, quindi lì poi si può andare a spulciare, si può andare a curiosare tutti i retroscena anche dello spettacolo. Lo spettacolo Eros a Roma, Teatro Il T, da lunedì 10 ottobre 2022 per tutti i lunedì. Un saluto e un ringraziamento all'attore Fabio Matteo Maffei. A presto! Grazie, grazie mille Federico, a presto, grazie a tutti. Con Francesca Mancini, una delle ideatrici del Festival di Scrittrici Inquiete, a Roma, 7, 8 e 15, 16 ottobre 2022. Ben trovata! Ciao, ben trovati e ben trovate. Raccontiamo cos'è. Quest'anno siamo arrivate alla sesta edizione appunto di Inquiete Festival di Scrittrici a Roma, che è un festival di letteratura femminista. Nasce insieme alla libreria Tuba di Roma, che è una delle dei punti di riferimento della letteratura e del pensiero femminista a Roma. Nasce appunto 6 anni fa insieme a un gruppo di altre donne, Barbara Leda Kenny, Barbara Piccolo e Maddalena Vianello, e nasce perché avevamo desiderio e voglia di mettere al centro e sul palco la parola delle donne, cioè di fare una riflessione a partire dalle donne che scrivono, non solo le scrittrici. Questo è un festival che accoglie pensatrici, filosofe, poete, giornaliste. La nostra idea era appunto quella di provare a creare uno spazio in cui le parole delle donne fossero protagoniste, e è stato molto bello. Negli anni siamo cresciute, siamo diventate anche un festival internazionale oltre che italiano, e siamo molto molto contente di accogliere ogni anno appunto tra le maggiori scrittrici italiane e non solo. E quest'anno abbiamo addirittura raddoppiato il weekend, quindi ci vedremo il 7 e l'8 presso la biblioteca Mameli e la libreria Tuba, e il 15 e il 16 al cinema Avorio. Quanti saranno gli appuntamenti? Saranno più di 60 incontri, per cui parleremo di scrittura, parleremo di poesia, parleremo di teatro comico, per cui insomma attraversiamo un po' tutti i linguaggi. Abbiamo anche da 2 anni inaugurato uno spazio dedicato alla fotografia, per cui abbiamo Eleonora Scotti Pecora che cura la nostra parte fotografica, per cui ogni appuntamento è raccontato anche da una fotografa. E per questo, insomma, ci piace dire che il nostro appunto è un festival che attraversa le arti. Come si articoleranno le giornate? Iniziamo il 7 ottobre alle 18 con un monologo di Nadia Cusini, e abbiamo voluto fortemente questo appuntamento intitolato Contro la forza. Ragioniamo appunto di pace con alcune delle maggiori pensatrici che ci accompagnano, Simone Weil, Virginia Woolf, Hannah Arendt. Quindi Nadia Cusini farà un monologo di 30 minuti in cui metterà al centro le parole della pace. E poi proseguiamo quest'anno con un omaggio diverso. Di solito in Crete si apre con un omaggio a Virginia Woolf, quest'anno invece abbiamo pensato di cambiare un pochino il format e lo dedichiamo a un'altra grande scrittrice dell'Ottocento che è Jane Austen. Quindi parleremo in occasione anche dell'uscita del Meridiano Mondadori, e quindi ne parleremo proprio con Liliana Rampello che ha curato il volume, e con Susanna Basso che ha ritradotto i 6 romanzi di Jane Austen. L'incontro sarà moderato da un'altra scrittrice e giornalista che è Annalena Benini. Proseguiremo poi con, forse questa giornata la potremo riassumere come un po' una giornata degli omaggi, perché alle 20:30 faremo un incontro appunto su Bell Hooks, che è morta l'anno scorso, e appunto rifletteremo a partire dalle sue riflessioni politiche di attivista nera e scrittrice femminista militante. Lo faremo insieme a Loredana Litterini, Rahma Noor, Magda Antespau e Daniela Brogi. E poi chiudiamo con uno splendido omaggio a Patrizia Cavalli alle 22:30 con Yaya Forte e la cantautrice Diana Tejera, che si esibiscono in un reading concerto introdotto dalla poeta Sara De Simone. Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma? www.inquietefestival.it, e poi chiaramente su tutti i nostri canali social, quindi sul nostro Instagram e su Facebook troverete tutte le informazioni e potete scoprire tutto il programma di queste 4 giornate molto intense. 6ª edizione del Festival di Scrittrici Inquiete a Roma, 7, 8 e poi 15 e 16 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad una delle ideatrici, Francesca Mancini. A presto! Grazie a voi, a presto! Con Francesca Sereno di Q Academy, che organizza Viva la Scienza a Roma, Biblioteca Arcipelago Auditorium, dal 1 al 17 ottobre 2022. Ben trovata. Buongiorno, buongiorno a voi. Di cosa si tratta? Viva la Scienza è un progetto di divulgazione scientifica che nasce da un partenariato consolidato che Q Academy ha con il CNR e i suoi istituti scientifici adesso collegati. È sostanzialmente un progetto di divulgazione scientifica proposto con lo scopo di approfondire, ma al tempo stesso anche divertire, cioè rigoroso da un lato e coinvolgente dall'altro. Il tema che affrontiamo è quello legato ai cambiamenti climatici, all'emergenza ambientale, e questo tema viene sviluppato attraverso una serie di incontri che sono rivolti a un pubblico vario, alcuni a un pubblico più allargato, pubblico più generalista, altri invece a un pubblico specifico costituito da classi di scuole di vario ordine e grado, qualcuno è destinato alle primarie, qualcuno alla media inferiore e qualcun altro alle superiori. Come era nato tutto? proprio con lo scopo di raccontare, dibattere su temi scottanti come questi, appunto, che vi dicevo, cioè legati alla sostenibilità ambientale, all'impatto che il cambiamento climatico ha sulla nostra vita, ma di raccontare tutto ciò attraverso un linguaggio e una modalità coinvolgente, quindi che faccia interagire i partecipanti, i destinatari di questi incontri, di questi laboratori, workshop, in maniera coinvolgente ma al tempo stesso rigorosa, arrivare a trasmettere una serie di conoscenze tematiche. Il progetto si è realizzato con il contributo del Dipartimento per le Attività Culturali di Roma Capitale, in quanto vincitore dell'avviso pubblico Estate Romana che accendiamo la città insieme. E il progetto ha visto la direzione scientifica di Orsetta Gregoretti e Silvia Mattoni. Come sono articolate le giornate? Le giornate sono 6 e sono incontri di circa un'ora e mezza. I primi 2 si sono già svolti. Il primo è stato un incontro il 1 ottobre, un sabato, nel tardo pomeriggio, è consistito in una proiezione di un documentario di Domenico Iannacone, un documentario Rai che si chiama I 10 comandamenti, il danno. Questo documentario tratta la tematica relativa alle terre dei fuochi nel Casertano e quindi dell'impatto che le discariche abusive hanno avuto sull'ambiente e sulle persone residenti in quell'ambito. A seguire c'è stato un dibattito condotto dallo studioso Matteo Guidotti, che è un ricercatore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche Giulio Natta del CNR, moderato da un giornalista del TG3 Mariella Venditti. In questo modo anche le persone hanno potuto fare domande, partecipare, insomma, e discutere. A seguire ci sono 4 incontri con le scuole, quindi in questo caso al mattino, destinate a classi di vario ordine e grado. È stato condotto Oddi Fish, Strani Pesci, dall'Istituto per le Risorse Biologiche e per le Biotecnologie Marine, sempre del CNR, che ha visto la partecipazione di ben 6 classi in 2 turni della scuola primaria. In questo workshop si è parlato di come sta mutando la fauna marina, quindi come si sta trasformando la biodiversità degli ambienti marini, e il tutto grazie alla coinvolgente relazione del professore Ernesto Azzurro, che è appunto uno dei ricercatori di questo istituto. E a seguire, destinato alle scuole medie, si parlerà di novel food e ricerca, cioè di nuove risorse, nuove opportunità dovuto proprio a questo cambiamento della fauna marina, quindi di come possiamo riconvertire queste nuove specie, che qualcuno chiama addirittura specie aliene, di pesci in ambito alimentare. La prossima settimana ci saranno altri 2 incontri, uno è il collegamento con la base artica del CNR, quindi l'Istituto di Scienze Polari si connetterà appunto con questa base artica e anche qui si parlerà nuovamente dell'impatto dei cambiamenti climatici nella zona polare artica e di altre regioni del pianeta. Mentre giovedì 13 ottobre ci sarà Cacciatori di Tornado, un altro coinvolgente workshop in cui il ricercatore e fisico dell'Istituto di Bioeconomia del CNR Massimiliano Pasqui racconterà come avviene l'impatto dell'uomo sulla natura e quindi anche la sempre più ridotta capacità della natura di affrontarlo, e questo sverterà essenzialmente sui cambiamenti climatici, quindi sull'aumento delle temperature e l'aumento delle frequenti ondate che ben conosciamo. Chiuderemo con una specie di conference show lunedì 17 ottobre destinata a un pubblico generale per tutti alle ore 18 dal titolo Il granchio blu alieno che invade la cucina gourmet mediterranea. La dottoressa Lucrezia Cilenti, sempre ricercatrice dell'Istituto delle Risorse Biologiche e delle Biotecnologie Marine, racconterà cosa è successo nei nostri mari del Mediterraneo in termini di questa espansione del famigerato granchio blu, e al tempo stesso sarà supportata da 2 cuochi, 2 chef che cucineranno in presenza questo granchio blu e faranno vedere come è possibile appunto convertire questa proliferazione dal punto di vista del cibo. Ci dà tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Tutto il programma lo potete trovare su www.qacademy.it e seguirci sui nostri social, che appunto sono su Facebook, Instagram Qacademy Impresa Sociale, o su Instagram Qacademy Roma. Per prenotarsi, naturalmente l'ingresso è gratuito, ma c'è una prenotazione che va effettuata al telefono della biblioteca, che è 06 45 46 07 10. Il progetto di divulgazione Viva la Scienza a Roma, Biblioteca Arcipelago Auditorium, dal 1 al 17 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Francesca Sereno di Q Academy che organizza. A presto! Grazie, buona giornata. Con Angela Gelati, co-direttrice artistica della 16ª edizione del festival Il Rumore del Lutto a Parma dall'8 ottobre al 2 novembre 2022, ben trovata. Grazie e buongiorno, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Cos'è per chi non lo conoscesse? È una rassegna che è diventata via via un festival di Death Education. Che cosa significa? Significa dare importanza agli aspetti che riguardano appunto la morte e il lutto come parti della vita. È un festival che cerca di educare in questo senso, visto che abbiamo rimosso l'argomento per tanto tempo, soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, e ci siamo resi conto appunto che era importante riuscire a parlarne, portare fuori dalle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, portare il discorso e l'argomento nel cuore della città dei vivi, ecco. Come è nato e come si sta sviluppando negli anni? Il festival è nato con un singolo evento nel 2007, dedicandolo alla memoria di Pierpaolo Pasolini, come atto provocatorio, infatti anche il nome che abbiamo scelto, questo simoro, che fa in realtà molto rumore, con un unico evento e 30 persone. E negli anni si è sviluppato via via, considerando anche l'interesse di una certa nicchia di pubblico, si è sviluppato via via fino ad arrivare quest'anno a 52 eventi. Abbiamo scelto poi il tema Curami, perché ogni anno sviluppiamo un tema portante, e proprio per curare meglio questo pensiero, perché la Death Education fa proprio questo, no? Curami è un incentivo per vivere meglio, per pensare la morte in modo diverso e soprattutto per riuscire a conquistare poco a poco più consapevolezza intorno a questo argomento. Tutti eventi multidisciplinari. Sì, siamo partiti proprio da quello che fa la tanatologia come materia che studia la morte in tutti i suoi ambiti, e quindi abbiamo scelto di parlarne da più punti di vista. Quindi apriremo appunto inaugurando il festival con Anna Heringer, che è un'architetta tedesca legata alla sostenibilità, che appunto ci parlerà di come abbracciare la vulnerabilità sia stata una fonte anche di creatività nel suo lavoro. E poi ci saranno appunto concerti, ci saranno convegni, laboratori, tavole rotonde, presentazioni di libri, ci saranno anche ritiri, perché faremo anche un ritiro spirituale fuori città. Perché nel tempo il festival si sta allargando, anche dando la possibilità ad altri luoghi, oltre che Parma, in cui poter dare questa sensibilizzazione, e quindi stiamo provando delle experience, diciamo, delle contaminazioni oltre la dimensione cittadina. Rispetto ai luoghi e agli orari? Nei weekend abbiamo uno spettro più ampio di modalità, nei giorni feriali invece lavoriamo più nelle scuole, per esempio con i laboratori di Death Education, che sono comunque laboratori previsti solo per determinate classi di scuola. Però ecco, abbiamo per esempio la Lectio di Luca Sommi, che sarà domenica mattina al Complesso Monumentale della Pilotta, con un viaggio legato a Dante e a Virgilio. Poi avremo per esempio la mostra di Vasco Ascolini all'OCSAC, il Centro Studi Archivio della Comunicazione, con appunto l'inaugurazione di Argento Nero, e lì sarà sabato 15 alle ore 11. Quindi ci sono eventi ovviamente più legati a momenti congressuali, dove ci possono essere anche 2 o 3 ore di convegno. Parlo ad esempio del corso convegno La Voce che Cura, con Fabrizio Dalcolu, Gina Mortari, Fausto Pagnotta, Erica Rigamonti, Gabriele Balestrazzi, eccetera. Però ecco, ci sono diversi appuntamenti. Pensiamo per esempio al concerto di Angelo Branduardi, che sarà al Teatro Regio di Parma alle ore 21 sabato 22 ottobre, ecco. Quindi diverse possibilità per sperimentare da più punti di vista questo tema, che è un tema davvero rimosso, che va reintegrato, che va riconquistato, ecco. Diamo tutti i riferimenti internet per il programma? www.ilrumoredellutto.com. Abbiamo anche tutte le pagine social attive, in cui appunto vengono proposti ogni giorno i nuovi appuntamenti. si può scrivere dove si troverà appunto l'indicazione per le informazioni e per partecipare o avere anche una semplice delucidazione su quello che può essere un evento piuttosto che un altro. 16ª edizione del festival Il Rumore del Lutto, sottotitolo sì. Curami quest'anno, a Parma dall'8 ottobre al 2 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice Angela Gelati. A presto! Grazie a voi, grazie a voi. Con un compagno di Scoop per presentare Corpi e Desiderio Festival a Roma, a Scoop dal 23 settembre al 15 ottobre 2022. Ben trovato. Eccoci, grazie a Radio Onda Rossa. Presentiamo questo festival Corpi e Desiderio a Scoop, via della stazione Tuscolana 82-84, metro Piazza Lodi e Ponte Lungo. E inizieremo dal 22 settembre in realtà con un evento della rassegna Corpi e Macchine all'interno del festival, un cineforum a cura degli studenti contro il Green Pass. Il festival poi avrà inizio pieno con il weekend del 23 e del 24. Come primo appuntamento andremo a fare un walkabout, un'esplorazione del quartiere, una passeggiata resistente, itinerante e performativa che dalle 5:30, partendo da Piazza Ragusa, sarà condotta da Bianca La Llorona Giovannini, Maurizio Crocco e Paolo Gelsomini. È una pratica che facciamo da tanto tempo, quella di passeggiare nel quartiere facendo un'indagine storica, architettonica, urbanistica, e questo per stimolare poi un pensiero e un'idea sul territorio. Il weekend del 23-24 dedicato alla cittadinanza prosegue poi a Scoop con l'inizio di questo programma con artisti che vengono dall'underground, che hanno delle proposte di ricerca, di sperimentazione, che prima di tutto hanno partecipato a Scoop nell'averlo come strumento di produzione, luogo di incontro, di prove, di realizzazione degli spettacoli che poi vedremo nel programma. Il 23 settembre ci saranno il trio Surro con uno spettacolo di circo cabaret, una performance sonora a cura di Oro e poi un duo con un piccolo varietà burlesque, Blue Clarissa e Annie Lee Scarlett. Il 24 settembre abbiamo invece un dibattito a cura di Black Lives Matter Roma, l'ISMA del Roma e Rete G2 Seconde Generazioni in occasione del centenario del partigiano Giorgio Marincola. Sarà presente Antar Marincola, Lorenzo Teodonio, Michele Colucci e Marina Pierlorenzi. La sera la musica, la parte di spettacolo avrà come ospiti Adel Ahmed, che è un artista di stand-up comedy, The Rebel DJ, poi c'è un progetto da New York, Sunken Cages, un batterista di Brooklyn, Radish Momin, che porta il suo progetto e inaugura il suo tour italiano proprio da noi. E infine Offline, un progetto di elettronica con didgeridoo e sintetizzatori di Christian Moela. Il weekend del 30 e del 1 ottobre sarà dedicato invece a immaginari e linguaggio con una tavola rotonda alle ore 18 il 30 settembre insieme al collettivo di fabbrica GKN, da laboratoria ecologista Berta Caceres, Marimo Ise, Eddy Marcucci e Gaia Benzi. La serata sarà caratterizzata da un viaggio nelle sonorità popolari con il progetto Bonè Bonè di Maurizio Catania, il duo Balfolk e Veil e poi la band Prokfolk Rema. Insieme a loro un'incursione performativa a cura di Sir Sharing Room, questo collettivo di danzatrici e danzatori nato a Scoop nel 2017, che dà un luogo alla danza contemporanea della scena romana e nazionale. E da questo circuito ci sarà Lorenzo Gianzanti che presenta la performance Contatto. Il 1 ottobre ricordiamo l'Assemblea Nazionale di Convergenza dei Movimenti della Società della Cura, che si terrà dalle 10 alle 17. Dimenticavo di ricordare che ogni sabato e domenica del festival si potrà iscrivere al workshop di autoritratto fotografico, un workshop condotto da una psicologa, psicoterapeuta e una fotografa, per utilizzare l'autoritratto fotografico come strumento di conoscenza di sé e di consapevolezza. Torniamo al programma del 1 ottobre alle ore 18 per il linguaggio, una tavola rotonda a cura di Libera, settimo municipio, Libera presidio di Tatria. Assemblea del linguaggio tra oppressione e riscatto. Si tratta di una tavola rotonda con Veronica Cerquetti, Anai Mariotti di Lucia e Siesta e i rapper Amir, Issa e Kento insieme a Miriam di BLM. La parte serale sarà invece occupata da un'altra maniera di usare la parola e il linguaggio per fare spettacolo, con la queer stand-up comedy di Simone Musitano e le recensioni non richieste, e poi uno spettacolo di musica clown cabaret, anche questo dal circuito del circo, che ha costituito un bel pezzo del progetto di Scoop e la Marlon Banda. Si prosegue altri due fine settimana, il 7 e l'8 ottobre, Terra e Corpi, sono queste le linee guida. Il 7 ottobre ci sarà dalle 16 alle 19 un workshop di antizigania, dedicato a tutti, dai bambini dai 10 anni in su, a cura della compagnia Rappa Prenestina, una compagnia italo-rom, un workshop in cui si impara a non essere antizigani, condotto proprio da loro. Si tratta di giocare, di stare insieme ma anche a ragionare. Alle ore 18 proviamo a dare uno sguardo anche a ciò che avviene dall'altra parte dell'oceano, con Amazzonia, Popoli e Terre che passa e Latino America. Una tavola rotonda con Monica Di Sisto, Francesco Panier, Lucia Capuzzi degli amici Movimento Sem Terra. Dalle ore 20 rimaniamo in tema latino con la musica de La Llave, un gruppo di street salsa, l'Arena del Fomento con il suo infuocato DJ set e il gruppo Quilombo Urbano Carcarà che aprirà le danze con la nota di capoeira. L'8 ottobre ritorna il workshop di autoritratto fotografico. Maggiori info sull'evento Facebook e alla nostra pagina. E ci sarà un workshop di danza Buto che si concluderà con una performance che vedrà improvvisare pittori, pittrici, danzatrici e un gruppo di musicisti per un momento di totale improvvisazione, incontro tra stili diversi, tra persone diverse, con l'obiettivo anche di andare alla radice un po' della performance, che è innanzitutto incontro tra persone più che esibizione di un artista verso un pubblico. Dopo di loro fu un spettacolo di teatro musica con la Recover Band, l'avanguardia vintage del progetto di Cobol Pongide. Torniamo con l'elettronica con il trio Om Tom, sempre un progetto di Cristian Muela e il suo didgeridoo. Ultimo weekend è quello del 14 e del 15 ottobre, Spazi e Desiderio. Alle ore 18 parleremo il 14 ottobre di emergenza climatica tra scienza e attivazione della società civile, una tavola rotonda con tanti ospiti che affronteranno un po' il ruolo dello scienziato nella divulgazione scientifica e nei meccanismi di attivazione e anche di mobilitazione su un tema così importante e così ignorato, se non proprio dato per prendersi in giro dalla recente campagna politica. E dopo questa bella discussione ci sarà uno spettacolo teatrale a cura della compagnia Rampa Prenestina, l'abbiamo ricordato prima, si chiama Aspettando Bo. Dopo di loro la Balkan Lab Orchestra, questo progetto che nasce da workshop, anche là un progetto di formazione che si trasforma anche in act musicale, e a completare la line-up da Torino DJ Grissino, un DJ ormai sulla scena da oltre 20 anni, con le sue selezioni live Global Beat e il suo DJ set. Ultimo giorno del festival andremo di nuovo fuori e si inizia, come abbiamo ricordato, con un'esplorazione del quartiere e si torna ad andare fuori con una performance itinerante con Anna Basti, Le Classique Se Chic, e faremo sapere dove ci porterà l'indagine del territorio a camminare e a performare in questa occasione. Grande conclusione, grande festa per l'ultima giornata con Banda Llorona, Willy the Punk e il DJ set di Playgirls from Caracas e la Pucci. Tutto questo a scoop dal 23 settembre al 15 ottobre, ogni giovedì la rassegna Corpi e Macchine. Saranno le ultime attività di scoop a via della stazione Tuscolana 82-84. Il 31 ottobre c'è uno sgombero previsto e improrogabile. Dal tavolo col comune e le istituzioni, comune, regione, municipio, non è uscita ancora una soluzione. Quindi noi abbiamo voluto lanciare questa programmazione per mettere un po' tutto insieme, dare visibilità a un percorso che è stato fatto in questi anni, per caratterizzare un'uscita di scena che non è un'uscita di scena, perché l'esigenza di spazi come Scoop rimane e vogliamo continuare a sostenerla. C'è stata un'assemblea con cui abbiamo presentato questo festival. Si è parlato di spazi pubblici abbandonati, si è parlato di circolo degli artisti. Se ne continuerà a parlare durante il festival, perché l'idea del festival è riunire tanti corpi per raggiungere un desiderio collettivo. Maggiori informazioni le trovate sui nostri canali social, Scoop Sport Cultura Popolare su Facebook e Instagram. Scoop si muove, il comune ancora non è raggiungibile, ma a noi sì, e quindi veniteci a trovare. Grazie, a presto. Con José Carcione per presentare il suo libro Roma in bici, un museo all'aperto. Ben trovato. Grazie Federico. Prima di tutto ti dico come è nato il libro, no? L'idea del libro è nata durante la pandemia, siamo nei momenti di parziale lockdown, quando si poteva solo andare in bici, ovviamente con la mascherina e da solo, visto che Roma era quasi vuota. Dopo un certo tempo ho mappato gran parte delle piste ciclabili del comune di Roma, che negli ultimi 4-5 anni sono aumentate di gran quantità, creando una rete ancora parziale ma consistente. Siccome sono un ricercatore, sono un geofisico, e i ricercatori cerchiamo di comunicare le nostre ricerche, sempre che sia originale, ho pensato che delle mappe e una descrizione concisa dei siti culturali sarebbe originale. In un certo senso questo libro è un complemento al libro di Carlo Coronati, della stessa casa editrice, Il Lupo, Roma guida insolita per esploratori urbani, che propone 15 percorsi principalmente a piedi. Il mio libro si focalizza sulle piste ciclabili, quindi l'uso della bicicletta, anche camminare, perché se si deve percorrere il marciapiede dove non c'è una pista, si deve camminare. Diciamo che include il comune di Roma, incluso Ostia, che appartiene al comune di Roma, ho messo anche alcune zone di Roma, tra Roma e Ostia, e anche la città di Fiumicino. Non è la velocità o l'agonismo il motivo di questo libro. Possiamo dire, paragonando con lo slow food, possiamo dire slow bike. Il ciclismo non è solo un'attività agonistica, ma anche un'opportunità di benessere psicofisico e anche culturale. In questo senso il libro intende combinare delle passeggiate con la bicicletta e la cultura, principalmente la cultura e la storia di Roma. Nel libro si propongono delle passeggiate in bicicletta, fermandosi non solo per fare una foto, ma anche per guardare i monumenti, conoscere la loro storia attraverso dei testi della terza parte del libro. Un altro aspetto del libro è anche la storia urbana, è anche importante, per esempio i luoghi di ristoro, alcuni storici che io indico nel libro, come delle caffè e delle taverne che fanno parte della storia della città. Il libro ha 3 capitoli. Il primo capitolo contiene 79 mappe con 92 percorsi modulari, ordinate per quartiere. Ci sono 35 quartieri in Roma, e anche zone di Roma fuori del comune, e sono 59 zone. Questi moduli, questi percorsi si possono combinare per creare itinerari estesi, che sono illustrati nella seconda parte del libro, e ce ne sono 11 di questi itinerari estesi, che vanno da 30 km a 80 km. Nelle mappe sono segnalati i siti culturali, che poi vengono descritti con delle foto e un breve testo nella parte terza del libro. Bueno, se uno vuole approfondire può andare a Wikipedia, a un'enciclopedia. Ce ne sono 57 illustrazioni, ma in totale vengono descritti più o meno 100 siti. Alcuni conosciuti, come per esempio il Colosseo, e altri meno conosciuti. Do un esempio, l'Arco dei Banchi, vicino a Castel Sant'Angelo, dove c'è una lapide con la data dell'alluvione del 1272, anche il livello dell'acqua, quello poco conosciuto, il Cristo di Michelangelo nella Basilica della Minerva, dove anche c'è la tomba di Frangelico, l'oratorio di San Silvestro del 1246 sul Colle Celio, la chiesa basilica dei Santi Quattro Coronati, dove ci sono gli affreschi della conversione di Costantino. Diciamo anche la cupola finta nella chiesa di Sant'Ignazio, il palazzetto del Viscione. Io anche ho messo che è importante l'uso del treno, soprattutto quello che va da Porta San Paolo a Ostia, è segnalato preferenzialmente, anche quello che va a Castel Gandolfo. Andare a Castel Gandolfo in bicicletta è un po' impegnativo perché ci sono 300 metri di dislivello, quindi si può prendere il treno e poi fare il circuito del lago, che saranno 10 km tranquillamente. Nel percorso che va da Porta San Paolo a Ostia si può scendere a Vitigna e si può percorrere il chiamato sentiero Trilusa, che costeggia la riserva tenuta presidenziale di Castel Porziano e arriva alla Pontina Vecchia. Poi si scende a Castel Bernocchi, comincia il sentiero Pasolini che attraverso il centro Giano, a Cilia, a Parco del Grado e arriva a Ostia Antica. Altrimenti se si scende a Ostia Antica si può prendere la ciclabile molto verde del parco di Castelfussano e arrivare al lungomare di Ostia. Volevo chiederti se hai calcolato nel complesso il chilometraggio di tutte queste piste. Il chilometraggio complessivo, e non tutte sono piste perché come ti ho detto la rete è parzialmente collegata, sono 320 chilometri in totale di piste, strade tranquille e marciapiedi, quindi diciamo che sarebbe un 90%, 80% in bicicletta e poi l'altro a piedi, perché ovviamente è vietato in marciapiede pedalare. Per tutte le informazioni c'è il sito internet dell'editrice Il Lupo. Sì, c'è il sito del Lupo e anche in diversi giornali online, anche interviste in TV, ho fatto un'intervista da TV Cusano l'altro giorno, le farò di nuove interviste anche. Il libro Roma in bici, un museo all'aperto, un saluto e un ringraziamento all'autore José Carcione. A presto! Grazie. Siamo all'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana per il teatro e per gli eventi culturali. C'è Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao, buon pomeriggio. È una settimana tutto sommato piuttosto intensa che andiamo subito a vedere nel dettaglio e cominciamo dalla fine, ovvero sia dalla fine del Festival Inventaria di cui abbiamo già parlato. Insomma, mi fa piacere poter segnalare un po' le ultime cose. Questo fine settimana saremo alle Carrozzerie Not dal 14 al 16, quindi per tutto il weekend. La prima romana il 14 ottobre per Figli di Radice Ibrida, un viaggio sospeso tra realtà e sogno, Nessuno si salva da solo, scritto e diretto da Giulia Di Sacco, i ricordi cambiano le nostre vite. Attorno a questo, cosa dicono di noi? I nostri ricordi sono un peso o un dono? Questo è quello che sarà appunto Figli il 14 ottobre, mentre il 15 vedremo Margot Theatre Company, Io ed Emma, storia di una madre, scritto e diretto da Valentina Cognatti, mentre invece il 16 ottobre si chiuderà con Enoch Marrella, Tecnicismi e Baldoria, nella Società dello Spettacolo Siamo Tutti Addetti ai Lavori, con Enoch Marrella appunto, che ha vinto il premio tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2021, dedicato appunto alla società moderna come un'immensa accumulazione di spettacoli. Lo spettacolo è il rapporto sociale tra le persone mediato dalle immagini. Questo lo scrisse Guy Debord e muoverà il testo di Enoch Marrella. Carrozzerie Not, 16 ottobre, ore 21. Questo per quanto riguarda Inventaria, ma noi abbiamo un po' di cose altre da condividere. Intanto vi direi che questo weekend, 14-16 ottobre, arriva a Roma il Circo Polo, spettacoli, laboratori, incontri, una grande rassegna di circo per grandi e piccoli. Si comincia con tre spettacoli. 14 ottobre il Circo Teatro e Cabaret, la poesia, la follia, pirotecnica e comica di All'incirco varietà con Domenico Lannutti e Gabri Corbo. Sabato 15, ma al mattino alle ore 11, Dimmi di sì, uno spettacolo per bambini e famiglie con Eva Q, una clown eccentrica, e Federica Fattori. Alle ore 21 ci sarà anche Petit Cabaret 1924, che si ispira, diciamo, al varietà del secolo scorso, mentre domenica sera, domenica mattina, perdono, alle ore 11, sarà l'eccentrico giocoliere Jacopo Candeloro che metterà in scena Circus Follies. Dunque, questo per quanto riguarda il Circo Polo al Parco del Forte Ardeatino, via di Grotta Perfetta, 524. Al via anche la stagione del teatro del Lido di Ostia, e segnalo che questa settimana per apertura andremo a vedere un lavoro ancora della compagnia Radice Ibrida, che quindi raddoppia il suo impegno settimanale. Il 16 ottobre, domenica, ci sarà al teatro del Lido di Ostia Giochi Notturni di, appunto, Giulia Di Sacco per la regia di Lapo Sintoni. Questo è quello che vedremo al teatro del Lido di Ostia, ma insomma da qui ci sarà l'intera stagione, tutti gli appuntamenti, insomma, della stagione nell'orbita del teatro di Roma. Invece, per chi amasse Frida Kahlo, viva la vita, Frida Kahlo e Chavela Vargas di Valeria Moretti, la regia di Carlo Emilio Lerici, l'accostamento tra le due artiste non così originale, tutto sommato, ma insomma, altre volte mi è capitato di vederlo. Il 14 ottobre alle ore 19 andrà in scena questo lavoro, appunto, con la regia di Carlo Emilio Lerici, prodotto dal Teatro Belli, alle Scuderie Aldo Brandini di Frascati. Quindi, questo per quanto riguarda Chavela Vargas e Frida Kahlo. Ma questa settimana inizia anche il Festival Performazione Sociale allo Spazio Rossellini e al Teatro di Mostacciano. Cominciato ieri sera con L'Abisso di Davide Enia allo Spazio Rossellini, mentre invece domenica al Teatro di Mostacciano verrà presentato 70 volte 7, questo lavoro fresco e molto considerato della giovane compagnia Controcanto Collettivo, contro l'odio diffuso, celebra il perdono e ci ricorda che dentro la ferita, nella memoria del male subito, c'è la possibilità di un incontro. Mentre invece lunedì 17 ritorno a Roma di uno spettacolo che ha girato un bel po' nel tempo, negli anni passati, sempre al Teatro di Mostacciano, con Tvat di Luigi Morra, in cui la violenza della sopraffazione fisica e del picchiarsi viene catapultata nella dimensione teatrale, ridiventa spettacolo. Questo per quanto riguarda, appunto, Performazione Sociale, che, appunto, comincia questa settimana. Segnalo al teatro Fortezza Est che questa settimana inizia un lavoro dedicato alla lettura per bambini dai 6 ai 10 anni, insomma, per gli spettacoli attenderemo la settimana successiva, però sul sito c'è tutta una serie di appuntamenti, leggere storie insieme ai bambini con le letture dal mondo, assolutamente, insomma, per chi vive in quella zona di Torpignattara, da non sottovalutare, da non perdere. Per quanto riguarda invece il teatro Quarticciolo, eccoci qua, questa settimana vedremo un lavoro il 15 ottobre alle ore 19, la restituzione di una ricerca fatta dalla compagnia Uteca Celidonia con Felicissima Giornata, con Antonella Morea e Dario Rea, la regia è di Emanuele Derrico, con le voci delle donne e degli uomini del Rione Sanità. La compagnia ha girato nel Rione Sanità, dove, insomma, ha sede, parlando della felicità attorno ai giorni felici di Beckett, che non poteva incontrare, diciamo, insomma, la conoscenza probabilmente di tutti gli intervistati, ma che ha in qualche modo mosso questo viaggio alla ricerca del giorno in cui realmente siamo stati felici. Queste le domande in cui la compagnia ha cercato di innescare la reazione degli intervistati. Il testo è venuto un po' fuori da sé, insomma, dalla varia umanità che ha composto queste risposte all'intervista. Quindi piuttosto interessante il lavoro, assolutamente politico. 15 ottobre, ore 19, per Felicissima Giornata di Uteca Celidonia al Teatro Quarticciolo. Dedichiamo anche ai bambini qualcosa, perché facciamo una parentesi bambini, via. Domenica 16 ottobre alle 16.30 al Centrale Peneste arriva il Loco Teatro con Umani, regia di Roberto Andolfi, con anche Anna Rita Colucci. All'interno lo spettacolo che unisce la manipolazione di oggetti in miniatura alle nuove tecnologie digitali, quindi teatro, cinema, micromanipolazione dai 5 anni in poi. Domenica 16 ottobre 16.30 al Centrale Peneste. Ma ancora, dedicato ai bambini, abbiamo un paio di di lavori da mostrare. Il primo è il Teatro Quarticciolo, ancora 16 ottobre alle ore 17, la compagnia La Luna nel Letto con Cappuccetto Rosso, ma portato sulla scena da danzatori, acrobati, attori che danno vita a questa fiaba, una chiave poetica e affascinante, cui il lupo si prepara a cacciare gli animali del bosco, uno qualunque va bene, insomma, l'importante è placare la fame. Ma la sorpresa preferita è Cappuccetto Rosso, questa sorta di sogno ricorrente, di visione. Arriva in scena il 16 ottobre alle ore 17 con Cappuccetto Rosso a Teatro Biblioteca Quarticciolo, ancora dedicato ai più piccoli. Questo lavoro dai 6 anni in poi è della compagnia fiamminga Zonzo, che torna al Roma Europa Festival e quindi al Mattatoio in questo preciso caso dal 14 al 16 ottobre, con questo lavoro dedicato all'armonia, ai ritmi musicali ed emozionanti, alla relazione tra suoni, animazioni, immagini, video, attraverso la scoperta del grande jazz di Thelonious Monk, un genio che ha attraversato, insomma, la musica jazz del Novecento, e questa compagnia Zonzo Compagnia lo porterà in scena al Mattatoio dal 14 al 16 ottobre. Lo spettacolo si chiama Thelonious, appunto come il nome del grande artista. Ancora Teatro Argo Studio, il 13 ottobre, giovedì alle ore 19, presenterà l'apertura di stagione con questo testo dell'autore iraniano Nassim Soleimanpour, un esperimento sociale in forma di spettacolo, White Rabbit, Red Rabbit, che abbiamo già visto, recitato da vari attori in giro per la città, ma anche altrove, insomma. E l'esperimento è piuttosto interessante. L'attrice o l'attore che lo interpreta, per un'unica volta, senza regie e senza prove, apre la busta sigillata che contiene il testo già sul palco e condivide il contenuto con il pubblico. E lo farà Tiziano Pannici, direttore e artistico dell'Argo Studio, e quindi così inaugura la nuova stagione del teatro. 13 ottobre, ore 19, Teatro Argo Studio. Teatro Basilica, uno spettacolo politico che mi sembra molto interessante. La prima di questo spettacolo avverrà giovedì 13, ma sarà in scena fino al 15 di ottobre. Teoria della classe disagiata, il testo di Sonia Antinori, dal saggio di Raffaele Alberto Ventura. Lo spettacolo viene messo in scena questa compagnia Malte, collettivo Onar, che porta sul palco due attori, appunto, che fanno parte della compagnia, precisamente il regista Giacomo Di Giù e Matteo Principi, per parlare della generazione cresciuta, della giovane generazione cresciuta con il dovere morale di inseguire passioni, prosciugare patrimoni familiari e primeggiare nella scalata sociale. Ma tutto questo sembra che stia crollando, dalla classe agiata passiamo alla classe disagiata, e lo scavo all'interno di questo nuovo concetto di lotta di classe avviene attraverso parabole letterarie, filosofiche, insomma, andando a scardinare il rapporto tra società, economia, letteratura e illusione collettiva. Questo per quanto riguarda Teoria della classe disagiata, 13-15 ottobre al Teatro Basilica. Ancora qualcosa al Teatro India, per il Teatro di Roma, 13-22 ottobre per Lo scrittoio di Pirandello, del laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli, di Roberto Gandini, che con Roberto Scarpetti scrive questo testo tratto da Luigi Pirandello, un testo di Pirandello che Pirandello non ha mai scritto. Questo dice Roberto Gandini, che dirige il laboratorio Piero Gabrielli, è un Luigi Pirandello seduto tra le sue carte, si trova davanti alle sue creature, la figliastra di 6 personaggi in cerca d'autore, e la genial Belluca del treno affischiato, e via gli altri personaggi, e così in qualche modo attraverso anche un personaggio immaginario, un collaboratore del maestro Pirandello, si chiama Fantasia, analizza un po' il suo modo di scrivere, il suo modo di esprimere il proprio teatro. Questo con, appunto, gli attori del laboratorio integrato, ma anche Francesca Astrei, Roberto Baldassari, Antonietta Bello e altri attori che saranno sulla scena per questo lavoro. Teatro India, 13-22 ottobre, Lo scrittoio di Pirandello. Ultimissime cose, vado a segnalarle. Allora, sono due precisamente. Uno è l'arrivo a Roma del testo di Strindberg, La signorina Giulia, che sarà in scena da questa sera fino al 16 ottobre, con la regia di Leonardo Lidi. In scena c'è Giulia Rigogna, Cristiana Rosa e Laria Falini, ed è uno spettacolo che pone l'attenzione sulla società contemporanea di Strindberg, che in qualche modo somiglia drammaticamente alla nostra. La signorina Giulia è poi il capostipite del movimento europeo del naturalismo, Strindberg un po' come Zola, insomma, cerca di semplificare la verità, ma poi in trasparenza, in realtà, nel vero e nella ricerca di verità, di realismo in qualche modo, naturalismo appunto, c'è, si annida, no, tutta la parte oscura dell'umano, e questo è quello che Strindberg mette in scena con questo testo, in cui tre orfani attendono, vivono uno spazio dove è impossibile non dedicarsi al tempo, non lasciarsi andare al tempo, dove la vita è più faticosa del lavoro e quasi ostile, da cui tutti vorremmo fuggire. In una notte capiremo insomma come gestire questa attesa assieme a loro tre. La signorina Giulia, dal 11 al 16 ottobre, Teatro Vascello. E l'ultimo, appunto, è il debutto un po' della settimana, da questa sera fino al 15 ottobre, sabato, in scena al Teatro Argentina per Roma Europa Festival, l'opera da tre soldi del Berliner Ensemble con la direzione d'opera appunto di Barry Costi. Stiamo parlando di un'opera scritta da Bertolt Brecht e musicata da Kurt Weill, che si basarono sull'opera del mendicante di John Gray e la traduzione che ne fece Elisabeth Hoffman prima appunto dell'opera brechtiana. Parliamo di un lavoro anch'esso profondamente politico, ma insomma raccontare la trama dell'opera da tre soldi è un gioco da ragazzi, appunto, da tre soldi, ed è un attacco violento alla società del capitale attraverso insomma il racconto della malavita londinese. Sono dei delinquenti che affollano il sottobosco londinese, e così ne viene una feroce critica al mondo borghese, una parodia cinica dei rapporti umani che Bertolt Brecht con Kurt Weill portarono in scena nel 1928. Questo è un po' il debutto della settimana, perché so il Berliner Ensemble è molto difficile che venga a Roma. Sarà grazie al Roma Europa Festival sul palco del Teatro Argentina, e con questo abbiamo concluso. Ciao a tutti! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.